Volevamo un suo commento alla notizia dell'assoluzione. Semplicemente felice, ma non desidero andare oltre questo commento. Va bene. Lei è stato costretto no, anche a un passaggio. Non posso fare altro commento. Grazie.